Silverton così, poi pazienza. Roger. Tuo nipote invece, quando abbiamo scherzato, ha detto molto parole, sì, francese. Capitale. Palla, palla, però beh, che ti registro, no? Palla, stronzo. Parisi. Palla, assieme a quella bagassa di tua moglie, palla. Perché mi dici parlare insieme a quella vacca di tua madre? Sparisci, bestia, brutto figlio bastardo mio. Sparisci, mica, mi fai schifo con tutti quanti quei capelli attaccati a testa. E se avessi la capita? Ma vai assieme a quella vacca di tua moglie, con quella bagassa, vai, stronzo. Sparisci, non ti voglio più sentire, non ti voglio più sentire. E poi cosa ti metti a dire? Mica per essere 40, ricordi che mi fai paura, che poi si è che tutto quanto cala al sotto, tutto quanto bu bu bu, tanto lo so che le 40 non si passi mai, sparisci. Tu che non c'hai 40, pronto, paraculo. E se adesso hai capito? Qualsiasi paura me la fai, no? Allora fallo. Però per la stessa fine di Marco Condo, eh? Tu è che la fa tanto e ti faccio vedere chi è fallicone, non ti preoccupare. Cioè. Vai, a te ne vai! Ma vattene tu la mente, coglione! Non è che c'ho coraggio di coglione! Vattene, se no vengo lì ti tronco le ossa, vattene, schifosa, non vedi che c'hai l'AIDS tu? Tu mi c'ha un'invenzione qua per te, fai quella rettina, rompere le cose delle spalle, eh? Perché se no vengo giù di una fiorantena con la partita dei pompieri, mi... Senta, per piacere, ormai basta, eh? È da stasera che sta sempre rompendo la testa. Lei cambia canale o siete mio figlio? No, lui ha che fare se lo chiama a chi non se ne va a giardini. No, lei non ha proprio nessun diritto di dire togliere sta baracchino. Se può cambiare lei canale e basta, perché mamma ha stufato, eh? A me non me ne frega niente, se ritiri suo figlio. A me non me ne frega niente di lei, perché lei è semplicemente un piccolo delinquente. Ascolti signora, guarda che mi sto già incavolando, eh. No. Non frega niente. Signora. Signora, ascolti a me. Le parlo io da parte di tutti quanti. Signora, dica a suo figlio che faccia fare il culo di andare ai giardini. Che dice in frequenza, perché è una cosa impossibile, guardi signora, le dico io. E inutile che lui dia del finocchio alle altre persone che non c'entrano niente, che non fanno neanche... Ma perché non lo lasciate perdere? Cazzo! Dico, perché non lo lasciate perdere? Perché invece di sfottarlo continuamente non fate un'altra discussione da un altro canale? Signora, io le dico questo, io parlo con una persona qualsiasi all'infuori di suo figlio e lui si mette a rompere le scatole dicendo tu non ci parli più, ti metto la portante, tu non ci parli, sei questo, sei questo e sei quest'altro. Ma sono modi di parlare così al baracchino? Non mi sembra manco giusto. Se io inizio un discorso con un'altra persona, lo voglio terminare. Sto parlando per i fatti miei, non c'è bisogno che suo figlio si metta in mezzo però. Hai ragione, ma siccome già voi conoscete mio figlio che tipo è, cercate di capirlo e di comprenderlo. Sto canale a parlare con quest'altra persona. Così non voglio mica stare a andare all'ospedale io, per voi. Ci dobbiamo andare noi, per lì. Ha ragione, ma se anche noi cambiamo canale... Ha ragione. Lui viene qui. Se lei invece di ritirare il baracchino, vedrà che suo figlio queste cose non le fa più. Siccome il baracchino ho già provato a ritirarlo, oh, e non mi riesce, un po' le persone per bene. Signora, signora, noi siamo persone per bene qui al baracchino, non siamo mica dei delinquenti, noi siamo persone quasi serie siamo. Quindi per cortesia, le ripeto, ritira il baracchino a suo figlio, perché tutto è sempre la solita storia. È inutile, noi ci spostiamo su qualsiasi altro canale, lui viene a pressare noi e ci dice, non ci parli, ti metto portante, sei questo, sei quest'altro, insomma qui ci sono anche delle persone e delle donne che stanno all'ascolto, perché chiaramente ognuno di noi, chi è sposato, e non è manco giusto che sia le nostre mogli, sia i nostri bambini sentano le parole che dice suo figlio, signora, e abbia un po' di pazienza. E invece le prende al baracchino, lo butta via, fa quello che vuole e vedrà che suo figlio queste cose, nessuno di noi lo cerca e lui non cerca lui, sia pure tranquilla con quello. Io dico, perché voi cercate sempre mio figlio? Perché andate sempre dove sta lui? Ma signora, chi cerca suo figlio, cerca suo figlio. Chi non lo cerca, per quale motivo? Deve essere coinvolto nelle sue scemenze che dice, perché non sono. Abbia un po' di pazienza. Io le ripeto, ci sono delle persone che stanno all'ascolto, ci sono dei bambini che sentire certe cose non è neanche giusto, quindi io non voglio fare un senso di colpa nei confronti, ci mancherebbe altro, però io dico questo, visto che ci sono delle persone che si comportano così con suo figlio, lei non fa altro che ritirare il baracchino, chiaramente lei è una persona adulta, sa quello che deve fare, e chiaramente non diamo colpa a Voletto perché è quello che è, ma lei, essendo la madre di Paoletto, riprende il baracchino, lo conserva, le fa quello che vuole e vedrà che queste cose qua in frequenza non succedono, signora. Però io ho paura, non so cosa può fare a mio figlio, sono quei disgraziati che l'incitano e non solo, e stanno sempre a fottere mio figlio. Se loro non si degnassero di parlare con mio figlio, non lo sfottessero e non le dicessero tante parolacce, tutto questo non avverrebbe. Giusto. Mi hanno stufato tutti. Che legge stanno. Ma signore, io dico questo, noi quando prendiamo un determinato canale, qualsiasi canale che noi prendiamo, noi sentiamo suo figlio, che è una cosa vergognosa, sentire suo figlio che incontra una persona che non è mai stata al baracchino, la prima volta che entra per poter parlare, per entrare nel mondo della 27, nei CB, e noi ci sentiamo dire, anche stando all'ascolto, senza cercare suo figlio, noi ci sentiamo, sentiamo che lui dice, ma sei peloso, fammi sentire i piedi, quanti hai, cosa fai, non so cosa, signora, abbia pazienza, chiaramente che lui, dico lui, ci metto in mezzo anch'io, e noi in queste cose qua non vogliamo sentirle, capito, perché il baracchino non è fatto per fare certe cose, abbiamo un po' di pazienza, signora, quindi chiaramente c'è chi si comporta maldestramente e c'è chi si comporta bene al baracchino, ma la maggior parte dei CB si comportano male, perché è giusto che ci comportino male, signora, sentendo certe cose che dice suo figlio, sei peloso, non sei peloso, quanti anni hai, quanti anni non hai e cose varie, poi una qualsiasi volta. Risulto, hai capito che ho dei coglioni? Risulto! Di quelle parolacce, mentre cerca. Sono quante volte mi ha cercato a me che non c'ero in frequenza e me l'hanno riferito, ecco, dico questo. Per quale motivo suo figlio si deve comportare così? Lei ha perfettamente ragione di dire che ci sono dei CB che lo stuzzicano, d'accordo, però io dico questo, per quale motivo lui si deve comportare così con delle persone che entrano nuove in frequenza e deve parlare, diciamo, nel senso di non lo so, amorevolmente, capito mia? Fate rinuncia a questo coglione! Fate una bella rinuncia a questo coglione! E che sia Pio Drago! Una bella rinuncia! Niente, per piacere, me lasci perdere! Perché io sono avvelenata dalla mattina da questo baracchino! Lo lasci dire e non lo scocci più. Beh, faccia finta che non esiste nel baracchino mio figlio, senta a me. Mi può fare proprio un favore a me, non a un altro. Ma lasciatelo stare. Perché fa un porco peggio assieme al lollo questo. Fa un porco anche lui, un maglino. Hai capito, stronzo? Attenzione, ce l'avete tre, un controllo per favore se me lo volete dare. Scusate l'introduzione e il crimine che vi parla da Papatango, Beato, non arriva la luce a casa tua, hai capito? È finito di rompere i coglioni. Per favore, cosa non mi dici niente? Che tutto oggi è rotto il coglione! Tu e quello figlio di ragazzo di lollo! Non dite parolacce che ci sono bambini! Sto per l'ennesima volta parla bene, che nessuno ti sta facendo niente, va bene? Guarda però me, tu mi hai rotto il coglione oggi, va bene? Tutti i coglioni! Smettila! Per quelle che ascolta! Perché tu sei un figlio di bagatta! Un figlio di coglione! Smettila! E adesso faccio tutto! Ora, 113, aspetta! Brutto figlio di bagatta! Te la faccio io una bella denuncia! Pronto! Questo ti sto dicendo va bene, che nessuno ti sta cercando, nessuno ti sta rompendo le scatole, va bene? Guarda, tu tutto oggi hai rotto le scatole, hai capito? Tu non parli più con nessuno, hai capito che ho dei coglioni? Basta. Ascolta un po', porta di cuore che sei arrabbiato. Se ti fai un fosso a Camposanto vicino a Ah? Perché non te ne vai a rompere le palle, visto come stai facendo parlare con te? Sono ricco, chiuditi. E non parlate più con questo figlio di bagatta. Più nessuno ha parlato con questo figlio di bagatta. Per questo c'è una madre furosa, peggio di tutti. Hai capito però beh che è finito di modulare, perché cosa credi? Di fare lecca culo a tutti? Non ti accorgi che fa schifo assieme a lollo? Schifoso! Ma se ti arrabbi tu, però beh, io non mi ci arrabbio più. Questa volta te lo sto dicendo, un'altra volta ti mandi 113 a casa tua. Hai capito, brutto coglione? Niente a me. Ma almeno non sai dove abito. Vai, va. Ah, vai, vai, pensa a tua moglie, vai, che ne ha più bisogno, vai. Invece di stare nella baracchina, rompe il coglione. Tanto tu non ci parli più. A costo che non parlo io, ma tu non ci parli. Hai capito? Tanto stanno tutti all'ascolto. E così ascoltano la merda che sei tu. Ma ascolta un pochino, parlo di me. Dagli uno schiaffone buono però, un cazzotto se possibile. Tu però beh, te puoi andare pure in affanculo, tu e tutta la tua razza, capito stronzo? Tu e tutta la razza tua, hai capito? Perché se ti trovo per strada ti rompe il culo, a te e a tua moglie, in vita, hai capito? A costo che io faccia galera. L'AIDS. L'amico mi sembra un po' ammassa, mi sembra un po' carico di batterie e carico di acido citrico. Guarda che l'amico non c'ha acido citrico, l'amico c'ha l'AIDS. Anche quella becchina a difenderlo. Non parlate male dei morti. Vedrà che qualche notte prende schiata, ce lo fa per rispetto e crepa. Ho detto di non parlare male dei morti. Meno male che sei andato, mi speriamo che crepi. Tu pensa quella vacca fuori! Che foto! Pensa a quella vacca di tua moglie che ho partito una famiglia per strada! Tifoso, tu e lei! Adesso è un passo più nessuno, metto io portata, questa volta taccone miccoli, hai capito coglione? Così si impara, dai il mio numero di telefono e rompe i coglioni! Aspetta, non ti incazzare adesso che sta iniziando il nuovo film e me lo guardo io. Non entrare adesso, fa Paolo, rientra da qui a 5 minuti, che io accendo da qui a 5 minuti, capito? Mamma è crepa, va! Tu crepi, becchino! Ah, vedi che c'hai l'AIDS, la stai contagiando a tutti! E la contagio anche a te, stronzo! Avete il culo dove ti trovo! Hai capito, coglione? Ma tu sei proprio solo a dire al baracchino, dice un verticale, invece, il fondo di parlare al baracchino. Non parli, sei tutto pippone, così è Paolo. Beh, anche tu ti si mette con quelle scatole, eh? È tutto oggi, non dire che non eri tu, perché sennò ti crepa l'importante. Lascialo stare, lo vedi che sta crepando adesso, speriamo che crepi subito. L'AIDS. Sì, io sono l'AIDS, sì. E tu invece c'hai i cazzi in culo, hai capito? I cazzi in culo, tu hai quella malattia. E tu però non ce l'hai, tu lo vorresti, però non ce l'hai. A te niente, sparisci, becchio. Che cosa ha detto? No. Ripeti, Falco. Amore, vai a fondere nelle amare. Vai, ammazzati tutto, è di San Giovanni. Se ti faccio scogliere il numero di tuo fratello, adesso ne sveglio tuo fratello, a vedere se sveglio quel bagazzone come te. Ma come fai a fargli squillare il numero di telefono? Io voglio sapere, come fai a fargli squillare il numero di telefono? Vedi che tu non riesci neanche a fargli squillare il telefono. Come fai a fargli squillare il numero? Vedi che c'è l'AIDS? C'ho ragione che tu c'è l'AIDS? Già io ho fatto squillare prima, Pier, non ti preoccupare. Già lo sa lui quello che ho fatto. Che ho detto chi era, attore o Nino. Dice sono Nino, attore non c'è. Invece era lui il Froscio. Ma dimmi una cosa, Paolo, chi è che ti ha fatto incavolare stasera? Dillo a me. Come? Io non me la prendo certamente. Oh, ciao. Contro ciò che mi dicono gli altri. Tutti quanti come crazy. Insomma, si esprime in questa maniera. No, io non c'ero, non mi dire che c'ero, io mi fa co. Come? Ah, vedantino, vedantino. No, tu non ci c'è. Ecco, e allora, siccome io non c'ero, io sono entrato adesso, adesso ti dico, fa come, fa quello che tu sei un becchino, adesso sparisci. Ma tu lo puoi dire, perché a me non mi interessa quello che dici. Ma gli altri stanno dicendo sempre cose. E gli altri, lo sai cosa ho fatto oggi? Dice tanto io fa un duro senso. E si mette a rompere le scarpe. E c'ha ragione, Ignazio. No, mette il disco, poi dice che non è lui. Lui peggio di Lollo Porco, poi Lollo Porco dice perché mi ha fatto la denuncia. E tanto domani gli arriva anche lui, non si preoccupare. Un attimo. Perché cerchi a me, Paolo? Vedi quanto c'è? Io che sono innocente, sono un ragazzo serio. Tu mi stai cercando, non è giusto però, Perché non sono io che mette Napoli, perché io non c'ho mangia Napoli, non c'ho radio, non c'ho niente. Non c'ho neanche la televisione, non ho mai giusto interesse per il center, non c'ho mai altro. Perché mi cerchi? È a casa di Lollo, anche il baracchino tuo c'ha Lollo allora, perché la musica tanto il segnale era forte, non dire che non vai mai a casa sua perché io lo so. No, io sono già 3.000 che non vado a casa di Lollo, perché cerchi a lui che non c'entra niente. E poi il fatto della musica, cerca delle persone che lo mettono, perché non sono io. Io ti ripeto, non possiedo né mangianato, né radio, né televisione, anche se adesso mi guardo il film di Bud Spencer. Quindi, per cortesia, non mi cercare a me. Vai, credi tutta la sera, comunque, non è scatto, lo vedi, credi tutta la sera. penna e un che poi tu lo vedi perché a me mi piace sempre. E beh, quando gli hai detto cosa mi ha fatto? Era un pifa, hai capito però bene. Che vedi e vai tu a cercare. Ma che tu entri, Falcone, caro caro, a rompermi l'anima su di uno. Adesso non sei tu, no? Vero, è qualche altro, no? Qualche altro frosce, Rugantino allora è. Ma vai, caga, però poi vai. Comunque, no, intanto devo salire su in questura. Così a me non ti ritiro nel baracchino e sono bello e tranquillo. Ma non so che il baracchino non c'è più, sono bello e felice. Tanto tu c'hai 200 canali e rompi sempre i coglioni sui canali bassi, perciò cosa c'è da fare 200 canali? Io almeno quando ce l'ho li uso. Mi fai sequestrare il baracchino, perché poi vengo da te, vengo, ti sequestro quello che hai tu e devo andare a rubarne altre 25 per arrivare alle 100 canali. Vai, vai, però vai, vai. Comunque, io non provo, perciò. Che cazzo vuoi? Ah, davvero sono. Tu rompi le scarpe e poi vedrai le cose vuoi. Tu credi che io sono scemo, che sono cretino? Io posso fare denuncia contro denuncia, però io le posso fare, capito? Va bene, telefonami pure, ti do, guarda, io ti dico sinceramente, ti do il mio numero di telefono è frequente. Non mi interessa niente chi l'ascolta, chi non l'ascolta. Il mio numero di telefono è 274901. Tu telefonami, non ci sono problemi. Poi ti rispondo, no? Telefoni, vai tranquillo. Uno non si fa solo. Si diventa casomai come. Vabbè. Per telefono puoi dire tutto quello che ti pare ti piace. Barchino. Se senti qualcosa che va distorto, tu mi dici, ma come, così stanno male. Ma io non scherzo con tutti. Allora, se parliamo di cosa facciamo? Allora non facciamo. Con le donne c'è sempre il tempo a parlarci. Parla. Ma non credo che le donne ti hanno ascoltato. A un certo punto. Viene a rompere la scatola a me e dire purtroppo mi siete questo. Io cosa ti ho detto stasera? Cosa ti ho detto? Ignazio finisce là? Perché poi stasera ti becchi la portante. Cosa credi che io non te la mettevo? Tu non rompere più la scatola a me la mattina e vedrai che io non ti scorcio più l'anima. Quando vorrai parlare con me, o mi dici per bere che io fa con telefono e io ti telefono, va bene? E mi puoi dire tutto quello che vuoi, quello che ti pare ti piace. Vedi, Piero, lo capisco, scherzo, vabbè. Io purtroppo sono ignorante, c'è delle volte non lo capisco, vabbè. Tu come però così. Sarà da tanto tempo che io non ho iniziato una prima volta a rompermi le scarpe. Ho detto, Ignazio, beh, c'è molto voluto parlare con le madre. Mi ha detto tutte le cazzate che hai voluto. Va bene, diciamo. Dove mi è successo un attimo prima? Sono andato a casa di loro, sono andato a casa. Non ti